Si tornava a parlare di Pink Floyd nella domanda del test attitudinale di quest'oggi. Intramontabili, dice. La domanda di quest'oggi riguardava il film concerto registrato nel 1971. Quale delle tre particolarità era vera? Forse che fu registrato in cima all'Everest con le maschere d'ossigeno? Ahimè, prospettiva suggestiva ma sbagliata. La A era sbagliata. E allora fu forse registrato nella suggestiva Pompei, incompleta, assenza di pubblico, ma con tutti gli effetti audiovisivi? Ebbene sì, colpo di scena! Due punti per la vostra patente. Esatto, andò esattamente così. E chi ha scelto l'opzione seconda, la risposta numero due, ha risposto bene, ha scelto esattamente. E quindi chi ha scelto la colorita terza risposta, ovvero i Pink Floyd suonarono a casa di Syd Barrett con 254 nani paganti, ha sbagliato e si deve andare a vedere il film Live at Pompeii dei Pink Floyd. Dico bene? Tra l'altro, giustissimamente, tra l'altro un must, un film che, come Tommy già detto in altre puntate, è da vedere, come tanti altri rock film, capolavori assoluti da non perdere. Seguite i consigli di Freccantoni. Seguite la voce di Pane, Burro e Rock and Roll, qui ai microfoni di Rock FM, dove il rock è per tutti, dunque anche per te. Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine. On the wall hung a tall mirror, distorted view. Per l'ennesima volta Rock FM, Pink Floyd di Arnold Lane, vecchio brano della formazione. Pink Floyd celebrati anche nel test attitudinale di quest'oggi. Guardate che siete forti là fuori, eh. Cioè non manca ogni giorno che c'è una domanda un po' più semplice del solito. Ma sono semplici, scrivono via SMS. Ogni giorno che c'è una domanda un po' più difficile, ma sono difficili. Vi voglio bene anche per questo, cari amici e amiche là fuori. Mentre confesso come il buon Freccantoni sia andato in brodo di giuggiole per una mail inviata da Carlo da Milano. Carlo, guarda che ci hai svoltato la trasmissione, eh? Era una cosa che spesso e volentieri abbiamo pensato quando facciamo le riunioni di redazione, ma poi non avevamo mai concretizzato, ovvero la possibilità di dedicare all'interno di Pane, Burro, Rock and Roll uno spazietto al lotto. O meglio, non al lotto, il cilotto, come si dice dalle mie parti, quella è un'altra roba. Il cilotto alle 8, no, cambio il lotto, i numeri da giocare, ok? Non so se si dice da tutte le parti cilotto, forse in Toscana non si dice tipo. Sapete cos'è un cilotto? Vabbè, dicevo, i numeri al lotto. Il buon Carlo da Milano dice: visto che spesso e volentieri parlate di dati e nomi, con l'almanacco ogni giorno lo facciamo, perché non consigliare dei numeri? Carlo, la cosa che più mi spaventava è che nessuno di noi è un gran frequentatore di lotto, quindi avrei bisogno di un paio di dritte, ma poi magari ti contatto via mail. Il suo esempio è, dice, ieri in televisione, dicevano che nei primi anni del Novecento l'Italia era un paese con una presenza elevata di omosessuali. Quindi il terno al lotto proposto da Carlo da Milano, in maniera alquanto omofobica, è 16, le chiappe, 90, la paura, e commenta, valutate voi di cosa, 1, l'Italia. Per questo è per chi ha paura, per chi invece ci piace dovrebbe essere un altro numero. In questo momento non ho il... Tra l'altro potremmo farci aiutare dall'amico di Napoli, solitamente città molto legata così ai numeri e quant'altro. Adesso vado a rintracciare un numero. Ci buttiamo nella numerologia, Pane, Burro, Rock and Roll. Potrebbe essere. Tra l'altro si fa anche un patto: se vincete, 5 euro in busta chiusa. Perché no? Vabbè, ascoltiamoci gli Yes, che forse è meglio. 8:35 minuti primi. La mattina prosegue con Long Distance Run Round. Man. Salute a tutti, saluti, saluti da Roberto Fricantoni, benvenuto DJ Ariele. Grazie. Senta, oggi io le ho preparato una sigletta per la rubrica delle cartoline. Ovvero? Ricordando che i nostri radioascoltatori hanno salvato la cartolina dall'estinzione. Un messaggio forte quello lanciato quest'estate, grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi. Sigla, posso lanciargliela ufficialmente? Grazie, grazie. Sigla! Sì. Voglio la cartolina, la cartolina, la cartolina. Mi piace la cartolina, la cartolina. Bella, bella, molto bella. Probabilmente la sfrutteremo sempre. Se le va, io andrei a ringraziare qualcuno dei tanti. Vi saluteremo tutti, questa è la promessa che abbiamo fatto. Dicevamo, abbiamo catalogato le cartoline. Quest'oggi torniamo in montagna. Colpo di scena. Sui monti. Abbiamo selezionato, la redazione ha segnalato tre cartoline. La prima arriva dalla Valle Vigezzo, Santa Maria Maggiore. Si firma Isa con 3X. Ah, Isa XXX. Grazie Isa per la cartolina. Andiamo a leggere a favore della petizione. Salviamo la cartolina postale. Ecco qua la mia. Non è che ci siano molte scelte, ma almeno il posto è bello. Grazie, grazie. Cara Isa, e complimenti per la grafia. Che grazie, nei bella. Confronti di tutte potrebbe essere forse una delle grafie migliori. Sì, sì, gran bella calligrafia. Voglio la cartolina, la cartolina. Torniamo, esatto, grazie per la sigla, perché andiamo a salutare invece Manu, che ci manda una cartolina da Canzo, nello specifico i coni di Canzo. Lei li aveva mai visti, Frick? Adesso li può vedere, grazie alla cartolina di Manu. Confesso. Che segnala anche: non serve partire quando si ha la fortuna di godere della vista dei corni di Canzo, no? I corni di Canzo. Cara Manu. Io sono davvero grato a questa ragazza, Manu. Per avermi fatto conoscere i corni di Canzo. Che prima assolutamente non conoscevo. Como, tra l'altro, anche vicino. Ma mi piacciono, un sacco. E aspetti, perché guardi qui invece, direttamente dalle Dolomiti, Francesca ci segnala un panca bestia, lui sì che ha una patente davvero rocker, Tommaso, Lisa e consorte Francesca. Eccolo qui, il panca bestia, glielo descriva. Adesso deve farlo lei. È una sorta di maschera, un signore seduto su una panchina, sì, che ha un vestito vagamente, come si può dire, ci facciamo tra aiutare, l'abruzzese no. Ci facciamo aiutare dall'indicazione Die Gufidaner Tracht, un original house in Gufida, no, non sappiamo, è un vestito tirolese, qualcosa di tedesco. Io Ma pensavo a qualcosa di col molisano, tra il molisano e tra il molisano e del Dolomiti. E con questo gemellaggio, grazie a Francesca, Tommaso e Elisa, che anche quest'oggi abbiamo viaggiato in montagna. Torneremo a parlare di cartoline postali con la nostra sigla. Voglio la cartolina, la cartolina, la cartolina. Salviamo la cartolina. Via Locatelli 1, 20124 Milano. E beh, che c'è? I see. Follow me, un po' la parabola degli ascoltatori di Rock FM, raccontata, narrata dai Genesis alle 8:45 minuti primi. Un po' segui lui, un po' segui me, un po' se hai capito, cioè, un po' voi seguete pane e burro rock and roll, un po' pane e burro rock and roll segue voi. Intanto abbiamo già tanato qualche radioascoltatore appassionato del lotto che ci aiuterà in queste nuove rubriche dedicate al consiglio dei numeri. Tra l'altro ieri pomeriggio mi è capitato di incappare in una trasmissione televisiva fenomenale dove c'era era una diretta. Non mi fanno impazzire quelli che aspettano le telefonate, è veramente una figata. Anzi, vorrei farlo anch'io, se solo mi ricordassi il numero di Rock FM: 0267091032. Chiamate adesso 0267091032. Abbiamo i numeri per voi, per farvi svoltare. Potrei farlo, secondo voi? Intanto ho attaccato il telefono, fatemelo suonare, per favore. No, Spadino, non farlo tu il numero, aspetta, voglio uno che chiama davvero. 0267091032. Questo è il numero di Rock FM. L'hai visto? Sì. È ufficiale. Potrei andare a fare le trasmissioni del lotto. Intanto tu che telefoni, aspetta, perdonami, finisco la diretta e ti rispondo. Mentre grazie agli ascolti meravigliosi di questa trasmissione che iniziamo finalmente ad avere i primi sponsor, uno fra tutti, la grandissima, meravigliosa casa di cura Eleonora Duse. Ehi tu, vero rocker, non ne puoi più della routine quotidiana? Hai bisogno di mettere freno alla tua irruenza? Non ne puoi proprio più del tuo vicino che impazzisce per Nino D'Angelo? All'Eleonora Duse troverai pace, relax e quel pizzico di comprensione che ti manca. Ciao amici, sono Roberto Fricantoni e anch'io, quando sento d'aver bisogno di un po' d'affetto, vado all'Eleonora Duse. All'Eleonora Duse troverai un team di specialisti che sapranno ascoltarti e in breve tempo diventeranno i tuoi amichetti del cuore. Oi ragazzi, amichetti del cuore, però comincia a girarmi la testa. Amici, non è che per caso avete sbagliato dose? Eleonora Duse, metti un'oasi nel tuo deserto. Ma mi sento strano, no? No, non è un cambio di stagione. Io sto per svenire. We'll be right back. Amici di Pane, Burro e Rock and Roll, approfitto dell'assenza di Ariel per iniziare comicamente, prendendolo bonariamente in giro, come lui inizierebbe. Oh, che gioia, oh, che sollazzo! Ricordare... Oh, ma eccola qui, che... DJ Ariel! Mi sembrava un filo più buongiorno che non la mia imitazione. Le pregherei di affinarla. Oh, che gioia, oh, che sollazzo! Oh, che gioia, oh, che sollazzo, signora Longari! Maestro Fricantoni, lei non può nemmeno immaginare quante cose si scoprono ascoltando Rock FM la mattina. Ma ne ho una vaga idea e so che sta per arrivare una sorpresa esclusiva. Guardi, la prima cosa che si può intuire sentendo ogni giorno Pane, Burro e Rock and Roll è che non siete messi affatto bene. Questo è una considerazione da fare. Prima nel mondo, lei dice? Loro che stanno sentendo adesso, sì. Dico, se non hanno trovato niente di meglio da sentire adesso, è che un problema c'è. Non me li demotivi. No, un problema c'è, sicuramente un problema c'è. E l'altro invece è che a volte l'alcol emargina. Beh, che era una cosa che si poteva sapere. Sì, certo. Qual è il nesso? La sto prendendo alla larga. Mi sto chiedendo qual è il nesso. Non c'è tra nesso entrambe. Tra le due cose, ma c'è nesso con il fatto che andrei con lo strano ma vero, l'ansia in ansia di quest'oggi. Ah, l'ansia in ansia mi piace moltissimo. Sono tutto orecchi. Allora, andremo a trattare l'argomento api ubriache. Ah, i malesseri dell'alcol. Sì, api sbronze. Lei ha mai visto una presbronza? Beh, non lo so, ho visto molte sbronze. Le girerò la domanda in un altro modo. Lei è mai stato sbronzo su un'ape? No, credo di non aver ancora provato questa ebbrezza nemmeno sull'apino. Ho visto tanti sbronzi in ape, ma non mi è ancora successo. Ad ogni modo, vado con l'ansia. Passiamo ai mali devastanti dell'alcol. Alcuni scienziati hanno sottoposto un gruppo di api ad un singolare esperimento. Le hanno messe di fronte a due soluzioni, una ad altissima concentrazione di zucchero, l'altra ad elevata gradazione alcolica. Tutte le api, dimostrandosi delle vere rocker, si sono precipitate sulla soluzione alcolica. Questo per dimostrare che naturalmente uno tende all'alcol piuttosto che allo zucchero. La conseguenza, sempre educativo, Pane, Burro e Rock and Roll, sì, in infatti, ogni caso, in le ogni sue caso. Sfaccettature. Certo. Proseguo, la conseguenza è che le api ubriache, una volta tornate all'alveare, questo è molto interessante, vengono emarginate dalla comunità e tenute letteralmente separate dal resto dello sciame. Come succede a lei? Ma come? Ma non me ne ero lei, mai accorto. Ma non si è mai sentito emarginato non dalla società? Non me ne ero mai accorto, però adesso ci starò più attento, ci farò più caso. Attenzione, perché chiudiamo però con l'happy ending, come è giusto che sia, riprendendo Fricantoni in società, ma soprattutto segnalando che su queste api gli scienziati hanno già sperimentato con successo alcuni ritrovati contro l'alcolismo. Quindi le fanno sbronzare, ma a fin di bene. A fin di bene, perché poi trovano i rimedi. Quindi questo ci offre il destro per raccomandare a tutte le api in ascolto di non guidare in stato di ubriachezza. Intanto io torno di là a finire la mia boccia di Jack Daniels che mi è stata consegnata dall'ospedale dal Niguarda di Milano, perché sto aiutando la scienza. Scusa, migliore non poteva trovare, le faccio i miei complimenti, ma stia attento comunque, perché perfino gli insetti sono stati emarginati. Salute. Salute. E saluti, salute e saluti. E beh, che c'è? I'm Communication Breakdown, Led Zeppelin. È la fine, mio unico amico, è la fine di Pane, Burro e Rock and Roll. Sigla! È meglio, dai. Ritorniamo domani, precisi, puntuali, alle 7 spaccate del mattino. Pane, burro e rock and roll. Si conclude la settima puntata. La tua colazione roll. Tra qualche minuto ci troverete su internet. Pane, burro e rock and roll. www.radiorockfm.com. Sezione archivi, la puntata di quest'oggi. Yeah! Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Con l'Ariele Spadino, Freak Antoni. Basta, siamo in tre. E la redazione, salutiamo anche Isaac della redazione, che non lo salutiamo mai. Ma soprattutto un saluto al buon Marco Garavaus. Presente. Tra 50 secondi in onda. Cioè no, in onda già adesso. Sì, ciao, 50 Marco. Secondi inizio. Era per fare... Poi oggi non so se finisco, però... Inizio. Attendiamo, diciamo, un blackout elettrico. Esatto, sì. Vediamo cosa succede questa volta. Mi permetti di invitare i radioascoltatori questo mercoledì? A Sagapò? Guarda, ce l'ho scritto qui, me lo ricordo. Sagapò Live, via Ludovico il Moro, 171 Milano. Più preciso di così, guarda. Stavolta non sbagli. Concerto dei Pain, versione Elettro 80. Mentre chiedo scusa a qualcuno che si è lamentato. Promuoviamo sempre che la puntata di Pane, Burro e Rock and Roll va in internet dopo pochi minuti, cosa che avviene. A volte c'è qualche intoppo tecnico, ma adesso non sto a spiegarvi sempre che, essendo Rock FM, essendo noi dei rocker, avendo delle attrezzature rock, è giusto che ogni tanto si inceppi non qualcosa. Non sempre quando inforni la torta esce perfetta, lievitata, croccante. Guarda, Garavelli, tu e la tua saggezza popolare di Cornaredo, vedi? Hai centrato l'obiettivo. Va bene. Anche quest'oggi. Speriamo che la puntata vada tutta, altrimenti ci si risente domani in rigorosa diretta, quella, a meno che non sveniamo, di solito va tutta quanta. Garavelli, buona giornata. Ciao, grazie.